L'altro pianeta, Expo 2015, di Laura Bettini. Questa puntata dell'altro pianeta che va in onda direttamente da Padibus e Italia, dall'Expo di Milano. Sono due i temi che affrontiamo in questa puntata, parleremo di vetro e di monitoraggio dell'aria. A questo punto però presentiamo il nostro primo ospite che ci terrà compagnia fino alle 14.30, perché va detto che quest'oggi andremo straordinariamente in onda fino alle 15, scusate, quindi la trasmissione dura un'ora invece della consueta mezz'ora. In questa prima mezz'ora ci tiene compagnia l'ingegner Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori di Assovetro. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere venuto in questo sabato pomeriggio, magari aveva altri programmi ma ci tiene compagnia almeno per questa mezz'oretta, poi la rilasciamo. E tra l'altro una bella giornata, fortunatamente stamattina è iniziata piuttosto male e quindi io ero già preoccupata, diciamo, per questo nostro pomeriggio insieme. E invece adesso c'è il sole, si sta molto bene e parliamo di appunto vetro e della sostenibilità del vetro. Assovetro, va detto, Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, qui non stiamo parlando, quindi, come abbiamo fatto tante altre volte, di recupero, raccolta, riciclo del vetro, ma di chi poi produce il contenitore, no? Produce il contenitore. La sostenibilità per voi è direi un pilastro portante, si sviluppa in tante direzioni. Io direi di cominciare a dare un'idea agli ascoltatori di quali, no? Di quali ambiti toccano la sostenibilità nel vostro operato. Beh, cosa producete? Prima cosa, produciamo contenitori, bottiglie, quindi, e vasi. Bottiglie e vasi, quindi. E ne produciamo anche in una quantità esagerata. Ci fa qualche numero, perché sono tanti veramente. Parliamo di 3.600.000 tonnellate di vetro. Tutta la categoria Assovetro ne produce 4.800.000. Il che significa, visto che siamo a Milano, le do un ordine di grandezza paragonabile col Duomo, sono 14 Duomi di Milano che produciamo ogni anno. E quindi se li potessimo mettere insieme costruiremo 14 Duomi, esatto, di Milano, incredibile. Un numero incredibile. 3 tonnellate su 4 sono contenitori, quindi bottiglie e vasi di vetro, quindi un ordine di grandezza a tre quarti. Per gli alimenti, quindi? Per gli alimenti, di cui 2 milioni, giusto per dare anche qualche indice di mercato, 2 milioni 200 mila tonnellate sono per il mercato domestico e il resto è esportazione, quindi un terzo esportazione, un ordine di grandezza importante. Quindi produciamo tutto questo in Italia, sì. Un terzo va all'estero, il resto lo usiamo noi per i nostri prodotti alimentari made in Italy, esatto. Che tanto appunto penso vi faccia piacere poi accompagnare all'estero questi prodotti. Assolutamente sì, e in un momento in cui c'è stata una crisi importante che ha morso il settore dei vini, il mercato dell'export è stato veramente un salvagente importante. Il vino per il 55% è domestico, 45% è export in paesi. È molto importante. È molto importante accompagnare poi anche, no? Quindi il prodotto verso. Assolutamente. Infatti noi siamo anche la qualità, Cibus Italia, dire, proprio che per questa ragione, perché se il tema è il tema del gusto, è il tema della qualità, è il tema della salute legata all'alimentare, noi questa missione ce la sentiamo insieme a Federalimentari, vogliamo accompagnare in questo percorso. Quindi abbiamo un padiglione, nel padiglione abbiamo anche noi partecipato con Assovetro. Tra l'altro c'è anche un'esposizione, almeno nei miei ricordi ci dovrebbe essere, esatto, un'esposizione di quello che voi fate. Insomma, esattamente, quindi. Esattamente, di tutti i prodotti, e inviterei a visitare, perché il pavimento è qualcosa di estremamente particolare, perché è stato ricostruito sia con del rottame di vetro, e quindi si abbina al discorso della sostenibilità, che anche con dei monoblocchi di vetro che abbiamo ricavato da forni che si sono fermati, e quindi sembra un po' di essere su un pianeta simile a Marte, perché è tutto vetro intorno. Ma allora, finito qui, poi andiamo a vederlo, sì, che così sì. Almeno poi dopo possiamo in una prossima puntata raccontarlo agli ascoltatori. Cominciamo proprio a parlare della sostenibilità. Sostenibilità si declina in tanti modi nel vostro contesto, perché possiamo parlare della sostenibilità nel momento in cui produciamo questi contenitori, esatto. Si produce anche a partire dal rottame di vetro, e questo, e poi il vetro di per sé non muore mai, no? Perché è un ciclo continuo. È perfetto per l'economia circolare, perché in pratica è infinitamente riciclabile al 100%, e la qualità del prodotto che si riottiene è esattamente analogo a quello ricavato dalle materie prime al 100%. anche qui vorrei dare dei numeri. Noi siamo un paese che, se l'Europa aveva chiesto di arrivare a un 60% di recupero del mercato domestico del vetro, noi siamo già arrivati al 70, esattamente 70,3, quindi siamo sopra quello che era l'indice che era stato richiesto da Incredibile, Bruxelles. Ma vero, per questa volta. Per una volta siamo veramente... Però io ricordo di avere parlato proprio con dei produttori del tema che in Italia viene ancora poco affrontato, che è quello del vetro chiaro, vetro scuro. Sì. Noi abbiamo questo difetto ancora all'origine nella raccolta del vetro, cioè gli italiani sono molto propensi a raccogliere, lo fanno volentieri, come ci diceva lei, poi le cifre sono chiare, però lo facciamo ancora in maniera disordinata. Questo è un po' colpa di tutti, nel senso anche del sistema che non è organizzato a suddividere. E quindi questo poi cosa implica? Beh, diciamo che mentre in Germania fanno proprio la divisione dei colori e quindi poi è più facile effettuare il riciclo, per noi è un po' più complicato, ma come sempre come italiani ci siamo inventati, siccome l'ingegneria è uno dei settori dove siamo forti, oggi con dei lettori ottici avviene la separazione comunque del frammento verde rispetto al frammento chiaro. È chiaro che è molto più complicato recuperare il vetro chiaro, per cui oggi le do anche qui due numeri. Abbiamo il 59% del recuperato nella premiscela, che sono le materie prime che vanno a produrre il vetro, mentre la media europea è 52%, quindi siamo un po' meglio della media europea. Però nel vetro chiaro, come si diceva prima, è più complicato, arriviamo solo al 30%, mentre abbiamo percentuali molto più alte sulla classica bottiglia verde di recupero. Perché poi ovviamente dal verde non torna al bianco, insomma, una volta che sono mescolati, quello non è possibile, bastano poche percentuali di verde per macchiare il bianco e quindi è necessario fare molta più attenzione quando si recupera. Allora, il contenitore, mettiamo che l'abbiamo ottenuto, il nostro contenitore, che sia verde o bianco o di qualsiasi altro colore, questo contenitore che vantaggi ha rispetto ad altri tipi di contenitori per alimenti? Direi il primo forse per la conservazione. Assolutamente, cioè la capacità di mantenere le stesse caratteristiche nutrienti e organolettiche, quindi stiamo parlando di odore e sapore, è straordinaria. L'85% su un campione europeo riconosce il vetro come il contenitore di qualità proprio per queste caratteristiche. Se entriamo in un supermarket e andiamo a vedere per l'acqua, ad esempio, qual è il moltiplicatore come fattore di conservazione, vediamo che rispetto agli altri materiali comuni per il packaging, le bottiglie di vetro sono conservate per il doppio del tempo. E se andiamo a vedere un altro materiale che è molto comune, che è la passata, che è molto comune per noi, addirittura il moltiplicatore è più alto, è 3 volte. No. Quindi questo è proprio a testimoniare le caratteristiche. Perché? Perché nasce da due caratteristiche: l'impermeabilità del vetro, significa che non c'è uno scambio con l'esterno, quindi è antisettico, non c'è rischio batteri, e c'è un fattore di inerzia chimica proprio, non avviene uno scambio tra il contenitore e il prodotto contenuto, quindi l'alimento, che sia una bevanda o che sia un altro materiale d'alimento. Sì, e questo è il. E poi ci sono appunto i tempi di scadenza sono più lunghi, mi diceva, c'è anche un aspetto che forse è quello del poter vedere quello che c'è dentro, no? Perché comunque questo implica, per chi fa quella passata, se parliamo di passata, che dice, avere in mente che il consumatore sceglierà vedendo, non è un prodotto chiuso, inscatolato, ma la passata che io andrò a scegliere deve essere accattivante, non lo so, più solida se mi piace, più acquosa, insomma andrò a guardare anche questo. Direi che anche questo è un vantaggio forse del vetro. È anche una garanzia di qualità per il consumatore, perché vede esattamente quello che compra e infatti anche qui è riconosciuto come un indice di qualità. E noi lo abbiniamo a un discorso di una riduzione dello spreco alimentare, cioè dall'Europa ci dicono che noi mediamente abbiamo uno spreco alimentare di 76 kg per persona in Italia, che è un fattore importante, incredibile, c'è anche un discorso etico legato al miliardo di persone malnutrite nel nostro pianeta. Ebbene, noi riteniamo che proprio perché è visibile, proprio perché abbiamo il vetro determina le caratteristiche che dicevamo prima, c'è un'abbinata ed è riconosciuta sulla qualità del prodotto finale e quindi c'è anche meno spreco del consumatore, c'è un riconoscimento della qualità dell'alimento che è contenuto nel vetro. Quindi voi avete scandagliato anche questo aspetto psicologico, diciamo. Sì, i sondaggi. E infatti, come ripeto, l'85% delle persone preferisci il vetro come alimento. Siamo un po' più bassi in Italia rispetto all'Europa. L'Europa l'87. Nonostante questa passione che dimostriamo nel momento in cui andiamo a raccogliere. Ad esempio, riconosciamo tantissimo il timore dello scambio chimico, perché 8 persone su 10 in Europa hanno un timore di questo scambio chimico tra l'elemento packaging e il contenuto. In Italia 9. Noi, come sempre, sulla salute siamo forse un po' più timorosi degli europei. Però per quanto riguarda invece la scelta del packaging, che rimane pur sempre altissima, ad esempio nelle bevande stiamo parlando del 54% preferisce il vetro. 54% nelle bevande? Sì, sì. E invece negli alimenti arriviamo addirittura, nelle bevande il 76%, mentre il 53% nell'alimentare, che poi anche qui è tutto un discorso di esportazione. Sì, sì, sì, è molto interessante. E chi non sceglie il vetro cosa sceglie, per curiosità? Tra gli altri si dividono? Adesso li dico, cioè, no, no, ma è per dire... C'è il PET, c'è l'alluminio, c'è il... Cioè si dividono, non c'è una scelta massiccia sul PET, no? Sì, c'è una scelta variopinta. Io mi riferivo a un discorso di qualità e salute principalmente. Certo. Poi è vero che c'è un discorso di sostenibilità per il prodotto, ma c'è un discorso di sostenibilità anche per la produzione, perché dicevo prima del 70% del recupero del vetro, no? Sì. Che è un indice molto alto. Siamo i terzi in Europa dopo Germania e Francia. Oggi abbiamo 6.500 comuni che sono attivati per il recupero e recuperiamo 1.600.000 tonnellate di vetro, è un numero enorme rispetto alle 2.200.000. E mi piace citare, perché poi c'è la distribuzione che se vuoi la posso anche dire, ma la Palma d'Oro che va alla Val d'Aosta, dove abbiamo un recupero di 50 kg pro capite. C'è un recupero anche in questo ambito del sud che... Era rimasto molto indietro negli anni. Il sud è ancora indietro in valore assoluto, perché rispetto alla media il nord, ad esempio, è 39 kg pro capite, il centro è 25 kg, il sud è 18,9 kg. Però bisogna dare atto che il sud sta facendo un interessante recupero, perché sia il centro che il sud hanno fatto un incremento l'anno scorso del 7% nell'anno di recupero. Un numero interessantissimo, quindi. La crescita del mercato del vetro per contenitori è stata negli ultimi 15 anni del 39%, del recupero del vetro è stato del 139%. Questo per dire come effettivamente ci sia stata questa focalizzazione, che ha portato a indici migliori delle medie europee. Adesso noi, tra poco, se non sbaglio, la regia me lo riconfermerà, abbiamo una piccola interruzione dopo la quale parleremo più specificamente degli impianti, della tecnologia. Benissimo. Così. Però prima le volevo chiedere, io qui ho visto nel vostro documento della distribuzione degli impianti lungo la penisola. Sì. Sono concentrati direi principalmente nel nord-est, forse c'è... Perché il Veneto è una regione dove la produzione del vino è incredibile, abbiamo un fenomeno come quindi il Prosecco. Quindi nasce da quello? Nasce da quello, però devo dire che siccome noi abbiamo un raggio di 300 km per il servizio sia dei clienti che per il 60% delle materie prime, c'è anche una buona distribuzione. Voglio dire, alimentare, parlavamo prima della passata, l'area della Campania è un'area importante, quindi comunque è ben distribuito. Questo permette, poi magari parleremo più tardi, anche della sostenibilità del sociale, che io credo che sia un tema un tema importante, quindi c'è la sostenibilità, diciamo, a tutto tondo. A tutto tondo, a tutto vetro. Allora, Valerio Rocchetti, regia, abbiamo davvero la viabilità come pensavo io? Sì, dice di sì, quindi se siamo pronti diamo spazio alla viabilità oppure no? Oppure andiamo avanti con l'impianto? Allora noi andiamo avanti, nell'attesa che ci dicano. Allora, dicevamo degli impianti che via via negli anni hanno avuto anche una grande trasformazione che li ha portati a un rinnovamento, ad essere più sostenibili, perché comunque la produzione del vetro implica anche grandi consumi, grandi, no? Grandi stabilimenti. Cos'è cambiato negli ultimi anni? Siamo vicini a quella che è l'industria di base chimica, perché comunque abbiamo dei consumi importanti di materie prime che sono comunque materie prime naturali, questo ci tengo a sottolinearlo, cioè nel 90% stiamo parlando di sabbia, stiamo parlando di carbonato di sodio e carbonato di calcio, che sono materiali veramente non tossici, materiali naturali. Quindi l'integrazione nella sostenibilità è anche a monte, cioè, perché sappiamo che oggi quando si estrae da una cava bisogna poi nel tempo reintegrare esattamente e rilasciare quando alla fine della vita della cava nelle condizioni in cui la si è trovata. La montagna. Gli impianti hanno subito delle trasformazioni incredibili per arrivare agli impianti. Le do un numero che per me è eclatante. Negli ultimi 50 anni è stato ridotto dell'80% il consumo di energia in questi impianti. 80. Dell'80%, cioè attraverso una trasformazione. Allora, ci sono due fenomeni. Innanzitutto quello che menzionavamo prima del recupero del vetro ha un effetto importante, cioè del riciclato, no? Cioè sì, perché questo abbatte ogni 10% che recuperiamo sul 100% di melogeno di vetro recuperato, noi riduciamo del 3% il consumo di energia e abbattiamo del 5% la CO2, quindi il famoso effetto Kyoto, no? Che dice che il ridurre del 20% nel sì. periodo dal 2008, noi negli ultimi anni abbiamo ridotto del 30%, quindi anche qui devo dire che siamo stati virtuosi in termini di recupero della CO2. E poi c'è tutto un mondo che si apre, potremmo parlare dalla costruzione stessa dei forni, che in funzione sono cambiate le geometrie, sono cambiati i materiali stessi rifrattari, che sono base alluminio zirconio, per permettere di avere meno dissipazioni. Sono aumentate le dimensioni dei singoli blocchi di rifrattario per ridurre il numero di giunti e quindi anche qui le dispersioni. E poi si apre tutto il mondo dell'energia, quindi i bruciatori, il passaggio dal, quello che è avvenuto poi un po' in tutto il mondo, anche nelle città, il passaggio dal consumo ad olio al consumo a gas. Mm-hmm. Il digitale, cioè questo digitale che è ovunque, ci ha aiutato anche quello, perché se lei pensa all'elettricità, il 40% di consumo di elettricità è figlia dei compressori. Per spiegare brevemente come si produce sì. una bottiglia, se deve immaginare. Io l'ho visto, è una cosa affascinante, sono stato in uno dei vostri impianti. Si deve immaginare questa goccia di vetro che è un sì. magma, che viene portata agli stampi, quindi a quelle che noi chiamiamo macchine IS, con delle condizioni di temperatura di forma che già hanno l'embrione della forma della bottiglia sì. che ci sarà. Dopodiché questa goccia viene, tramite un processo che è o di pressione soffiatura o soffiatura, tramite dell'aria compressa viene schiacciata contro lo stampo e quindi prende la forma, questa dello goccia stampo. Di vetro, della bottiglia che sarà, che esce intorno ai 600 gradi, entra a 1100, esce a 600 gradi. Quindi l'aria compressa, dicevo, è il 40%. Oggi ci sono, tramite il digitale, delle ottimizzazioni tra tutti i compressori che ci sono a stabilimento per arrivare veramente alla forma ottimizzata di consumo energetico. Oppure i ventilatori, ma qui ci ha aiutato il miglioramento dei motori, che oramai sono delle tecnologie, ci sono diverse famiglie e tipologie di motori con un'efficienza diversa e quindi ci sono delle efficienze spinte che permettono anche qui delle riduzioni. Questo per quanto riguarda l'energia. Ma se andiamo ad esempio nell'idrico, quindi consumo d'acqua, ritornando sì. sulla sostenibilità, ecco, anche qui cicli sempre più chiusi, quindi che non hanno necessarie di integrazioni, o addirittura chi è veramente bio e orientato al green, oramai stiamo parlando di bacini di raccolta dell'acqua piovana per reintegrare quel poco che magari non è nel ciclo chiuso, quindi siamo veramente sì, a sì, livello sì. importante. Beh, questo credo che sia stato da una parte un normale progresso, no? Perché, sì. e dall'altra parte una necessità forse anche per stare al passo con una esatto. concorrenza estera, penso soprattutto orientale, particolarmente forte, è stato anche quello magari che ha sì. incentivato il... Diciamo che il contenitore, rispetto ad altri business di cui potremmo anche accennare, ma ha una fortuna che, essendoci comunque una personalizzazione importante del contenitore, è meno soggetto a una competitività, cioè meno commodity, è meno a rischio di veramente una competitività da battaglia venendo da fuori. E come dicevo prima, il 50% dei clienti, il 47% esattamente, è nel raggio di 300 km. Questo determina il fatto di quella distribuzione. È un vantaggio anche per chi ha bisogno della bottiglia avere il produttore vicino. Assolutamente, per noi è un vantaggio straordinario perché quello che è importante è mantenere una qualità del prodotto molto alta, di qui tutte certo. le ragioni che dicevamo, un servizio molto alto, ma alla fine i clienti sono sostanzialmente domestici. Di quelle 3.600.000 tonnellate che ce ne avevamo, 2.200.000 sono domestico, dopodiché il resto è esportazione del produttore di vino, del produttore di alimenti, cioè noi forniamo il contenitore comunque in Italia, esce dal paese successivamente, chiaramente poi c'è molto più valore aggiunto nella catena con l'introduzione del vino, dell'alimento, e quindi ci sta il trasporto. Gli addetti. Sì. È bello che ci sia un'industria italiana del vetro, anche perché ci sono delle persone che ci lavorano. Cioè, tutta questa modernizzazione non ha ridotto il numero degli addetti, li ha spostati magari su altri ambiti? Sono cresciuti. Sono addirittura cresciuti. Sono addirittura cresciuti perché, come dicevo prima, mediamente... L'uomo e la macchina, qui ormai è un tema... È cresciuto, sì. Sì, sì, è un tema veramente di confronto quotidiano. Sì. Io, fra l'altro, nella mia esperienza precedente vengo dall'edilizia, quindi ho esattamente visto il lato scuro della crisi. Noi abbiamo 8.400 addetti oggi nel paese e ci piace dire che comunque solo il 3% ad esempio sono a tempo determinato, quindi è un mestiere dove il savoir-faire, le competenze per fare bene la bottiglia, come dicevo prima, è molto personalizzata, sono una necessità e quindi l'impiego non è un impiego momentaneo, è un impiego duraturo. In più mi piace anche sottolineare che, perché la stabilità, un po' di crisi si è sentita, ma comunque la stabilità rispetto ad altri business determina un gettito importante per lo Stato. Stiamo parlando che 1,4 miliardi di euro, quindi una fetta importante del PIL, sono determinati dai contenitori di vetro, e il gettito che noi diamo fiscale allo Stato italiano è 170 milioni di euro, quindi voglio dire, siamo dei contribuenti. Sì, importanti, diciamo. Ci piace. Beh, date un contributo, se non sbaglio, anche al Ministero dell'Ambiente, però lì è una questione di scambio di tecnologia, di supporto. C'è un rapporto forse privilegiato tra i produttori del vetro e il Ministero dell'Ambiente, o mi ricordo male e non è il vostro. Diciamo che noi siamo in continua evoluzione in termini di tecnologia, come dicevamo prima, per abbattere le NOx, le SOx, le polveri, quindi siamo anche stazioni sperimentali per provare tecnologie innovative. Anche qui, per dare giusto dei numeri, abbiamo abbattuto negli ultimi anni del 50% le emissioni del polvere tramite appunto effetti tecnologici e investimenti importanti. Dopo parliamo degli investimenti. Del 20% gli NOx, la soglia era 1200 ppm, oggi 800, quando uno fa una fabbrica nuova si parla di 500-600, anche qui la tecnologia ha veramente avuto delle evoluzioni importanti, e poi gli SOx, qui ha aiutato anche molto il passaggio dall'olio che accennavo prima al gas, perché di solito l'olio contiene il problema delle caldaie nelle grandi città, dei contenuti di zolfo importanti, quindi, e qui tra l'altro poi parliamo d'aria, quindi ecco. Mi diceva, gli investimenti, visto che abbiamo gli ultimi minuti più o meno, abbiamo ancora diversi minuti. Allora, gli investimenti sono investimenti, costano. Esatto. Sono stati di quale peso, diciamo? Poi dopo hanno prodotto i loro risultati comunque. È un peso importante, diciamo che come business, come attività, il vetro cavo, ma anche il vetro piano, quello dell'edilizia, ha una barriera di ingresso importante, perché gli investimenti sono significativi, cioè un forno è un qualcosa che costa tra i 100 e i 130 milioni di euro, cioè non è una roba che uno dice domani voglio anch'io fare le bottiglie. Però sono stati fatti degli investimenti importanti, soprattutto nell'ambito ambiente, sicurezza. Ci piace ricordare che negli ultimi 10 anni, quelli diciamo della crisi, solo in Italia si è investito una media di 89, questi sono i dati di Assovetro, quindi il medione di tutte le 19 società iscritte, si scrive 89 milioni di euro medi, quindi vuol dire un ordine di grandezza decisamente importante e significativo, di cui il 70% per ambienti, quindi sostenibilità, stiamo parlando di energie, emissioni e sicurezza dei lavoratori, anche qui gli indici negli ultimi 10 anni si sono ridotti per 3 degli infortuni. Noi come Assovetro monitoriamo questi indici e quindi ci passiamo le best practice, no, tra stabilimenti, perché comunque la sicurezza degli operatori è importante. Certo, è fondamentale, quindi insomma investire è stato necessario, i risultati però sono arrivati, non è un mestiere che si può improvvisare viste le cifre, però l'Italia sta andando bene, tanto che produce in più, tanto da mandare addirittura all'estero. Questo è comunque una buona notizia, no? Per tutto, sia per tutto il settore alimentare. Io direi che compriamo vetro, insomma. Scegliamo il vetro, scegliamo con attenzione, ecco, i materiali che conservano i nostri cibi. Io direi anche che mi ha fatto molto, davvero molto piacere poter parlare oggi con lei. Vogliamo dare una chiusa adesso a questo nostro incontro. Voi che diciamo progetti futuri di miglioramento, su quali fronti si investe adesso, pensando di poter incrementare magari già questo livello alto a cui siamo arrivati? Qual è la nuova frontiera, diciamo, per chi lavora nel vostro settore? Ma io credo che, come dicevo prima, una frontiera che oggi è difficilmente, perché è poco afferrabile, toccabile da parte di tutti, ma non solo per il nostro mestiere, per tutti i mestieri, sia la questione del digitale, veramente. che può aprire delle frontiere interne alle aziende. Cosa esterne. Vuol dire la frontiera del digitale? La frontiera del digitale in termini di utilizzo di programmazioni, internet ha aperto un mondo che ha diverse sfaccettature, quindi accennavo prima ad esempio l'utilizzo di alcuni software per l'ottimizzazione dei consumi energetici all'interno degli stabilimenti. Questa è stata una barriera, perché si è passati dal singolo utilizzo della singola macchina alla multimacchina come consumo. Sì. Questo secondo me è sicuramente un'area di sviluppo importante. Il peso della logistica anche ha un effetto importante per noi, in termini, come dicevo prima, che le distanze non sono distanze enormi, ma il mondo della bottiglia sta andando verso bottiglie sempre più piccole, quindi con un impatto, questo proprio perché il consumatore vuole la dose più piccola. Si vede spesso e sempre più volentieri la mezza bottiglia, non la bottiglia, e questo aiuta già di su anche. Quindi voi dovete stare attenti anche al cambio sociologico proprio della nostra. L'ultima cosa, giusto per riprendere la sua domanda, che di cui non ho parlato, e che è una tendenza proprio del mercato del vetro, è l'alleggerimento della bottiglia. Negli ultimi 20 anni la bottiglia si è alleggerita del 30%. Anche questo è grazie anche, immagino, all'investimento in tecnologia. Tecnologia, che significa progettazione, nel caso della bottiglia o del vaso, ottimizzata, quindi riduzione dello spreco della materia prima, riduzione dei costi energetici, riduzione delle emissioni di CO2, e questa è una tendenza che a parità di qualità. Ma si può alleggerirle ancora? È una tendenza inoltrata che la si continuerà a spingere grazie all'evoluzione ottenendo della tecnologia. Mantenendo lo stesso, diciamo, qualità. Ecco. Mantenendo, a parità di condizioni, perché vuol dire, è la stessa bottiglia che oggi troviamo sul mercato, che è cambiata. La 600 grammi è diventata 540, 500, la bottiglia classica, quella che si chiama la bordolese, per ovvi motivi d'origine. Che poi, se uno le deve anche spedire, se si tratta di prodotti alimentari, il fatto che sia più leggera è probabilmente un vantaggio superiore. Assolutamente, esatto. Minor peso, minor vuol dire peso. Minor costo energetico del trasporto, e a 360 gradi l'impatto proprio, riduzione delle materie prime. Anche nel trasporto, certo. Quindi vuol dire, anche questo è un fattore, è uno di quelli che ha contribuito alla famosa riduzione dell'80%, che è un numero enorme. Che dicevo prima. La ringrazio davvero per essere stato con noi. Ricordo l'ingegner Marco Ravasi, che è il presidente della sezione contenitori di Assovetro, che rappresenta, che riunisce, ma questo l'abbiamo capito sicuramente dalle sue parole, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro. Ha tempo per fare la piccola visita più tardi di Cibus Italia, magari sì, se resta andiamo insieme a vedere, se no invitiamo gli ascoltatori a venire a Cibus Italia e visitare appunto l'esposizione anche di vetro, anche di tutto il resto, ci mancherebbe, ma c'è il vetro di cui abbiamo parlato fino adesso. Facciamo una piccola pausa e tra pochissimo ci ritroviamo per parlare di monitoraggio dell'aria. L'altro pianeta, Expo 2015. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, siamo ancora al padiglione Cibus Italia all'interno di Expo Milano e, come detto appunto, adesso parliamo di monitoraggio dell'aria. Avevamo anticipato qualche tempo fa con Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria, di questa campagna di monitoraggio dell'aria che si sarebbe svolta in 9 città europee, tra queste c'è Milano e c'è grazie a Cittadini per l'Aria. Allora oggi finalmente siamo al via e con noi c'è Roberto Castelli Dezza, sempre di Cittadini per l'Aria. Ci spiega un po', Roberto, qual è l'obiettivo, che cosa è venuto, tra l'altro con una fotocamera, cos'è? Un attrezzino, no? Che servirà per questo monitoraggio. Un add-on che si installa sull'iPhone e che ha la funzione di, appunto, di monitorare la qualità dell'aria, in sostanza. Diamo prima l'obiettivo però di questa campagna. L'obiettivo fondamentale è quello di dare la possibilità a tutti i cittadini, ma anche ai ricercatori che volessero partecipare, partecipare a questo esperimento di scienza diffusa, in sostanza, con l'obiettivo di misurare la qualità dell'aria attraverso il proprio smartphone. In sostanza uno, poi ci dici dove, si procura questo apparecchio con il suo iPhone e va in giro e monitora l'aria, cioè fa delle fotografie? Esattamente, esattamente, delle fotografie. È un procedimento molto semplice. Ma deve dichiarare dove le fa? Sì, sì, adesso spiego semplicemente. Dunque, l'aggeggino è molto semplice. Viene rilasciato gratuitamente, per quanto riguarda Milano, in quattro negozi. Vi dico quali sono: Patagonia Store di Corso Garibaldi, Moroni Gomma, la farmacia Legnani di via Rasori 2, farmacia Foglia di Corso di Porta Romana. E viene rilasciato appunto gratuitamente e viene con un semplicissimo montaggio, viene installato sull'iPhone, e a questo punto in diversi momenti della giornata vengono scattate una serie di fotografie seguendo un semplice procedimento, cioè scannerizzando sostanzialmente il cielo terzo di fronte a sé, o e meno terzo, a seconda, della cosa, avendo l'accortezza di tenere il sole sempre dietro le spalle, scannerizzando appunto il cielo terzo, il cielo di fronte a sé, e poi inviando il risultato di questa scansione a una database europeo che contemporaneamente in queste 10 città che stanno partecipando a questo esperimento di scienza diffusa, in sostanza, raccoglierà le misurazioni effettuate dalle migliaia di cittadini che nei diversi momenti della giornata hanno misurato questa torbidità dell'aria. Dico torbidità perché di fatto quello che viene misurato non è esattamente l'inquinamento. Anche perché sarebbe impossibile attraverso assolutamente uno strumento impossibile. Di questo tipo. È uno strumento di una semplicità estrema e di una anche a vederlo di una, e si tratta semplicemente di una lente che viene installata sullo smartphone e quindi è impossibile. Ma quanto alla torbidità, che è un indice del livello di inquinamento dell'atmosfera presente in quel determinato momento. La domanda è stupida, però credo che sia fondamentale. Io installo questa cosina sulla, come si chiama, sull'obiettivo del mio telefonino, anzi del mio iPhone, perché poi ci spieghi perché solo un tipo è accettato. Ma la devo mettere e togliere ogni volta? Cioè, se voglio fare la fotografia a un mio amico poi mi viene torbido oppure no? La domanda è corretta, bisogna metterla e toglierla, però è veramente, si tratta di un aggeggino molto semplice che chi può tenere in tasca, che può tenere in borsa a seconda dei casi, cioè che si installa in un secondo, è veramente molto molto semplice una volta che si è imparato a metterlo, quindi è una seccatura tra virgolette molto limitata, anzi essere una cosa molto divertente. Vedremo cittadini in giro per la città che chissà perché incominciano a fotografare il cielo con questa gente. Poi ci va uno spazio aperto, insomma. Dunque, non possiamo metterci tra i grattacieli a fare questa cosa. Ci vuole una possibilità di avere un orizzonte aperto, possibilmente, cioè nessun ostacolo tipo edifici o alberi di fronte, in maniera tale che la fotocamera dell'iPhone inquadri l'orizzonte, cioè la fotocamera con LED on inquadri l'orizzonte in maniera tale quindi che sia possibile inquadrare diversi spicchi del cielo che una persona ha di fronte. Ok. Ecco. Questa è la condizione sine qua non, perché altrimenti non è... Quindi bisogna essere all'aria aperta, in sostanza. Non si può fare attraverso il vetro del salotto, ecco. No, bisogna uscire. Bisognerebbe uscire, ecco. Sì, bisognerebbe perché uscire. Solo l'iPhone, diciamolo? Dunque, l'iPhone è esclusivamente non per ragioni commerciali, non per alcun tipo di collegamento o sponsorizzazione, ma perché ci garantisce quell'uniformità di misurazioni e di criteri tecnici alla base proprio dell'iPhone stesso, che permettono la piena confrontabilità dei dati a livello europeo. Insomma, è come se avessimo tutti la stessa macchina fotografica. Esatto. È elemento essenziale di ogni procedimento scientifico, certo, o che vuole approcciarsi a una metodologia scientifica, quella di avere criteri uniformi, metodologie standard per la misurazione. Quindi purtroppo, cioè non purtroppo, abbiamo scelto, è stato scelto l'iPhone. Anche per la sua diffusione, probabilmente. Atene, Barcellona, Belgrado, Berlino, Copenaghen, Londra, Manchester, Milano e Roma. Quindi due italiane partecipano a questo progetto. Infatti. Quindi a Roma si potrà indagare su dove si può trovare questa... Esatto. Io per quanto riguarda Roma non so indicare quali sono esattamente i luoghi dove è possibile trovare gli add-on, perché diciamo gli accordi li abbiamo presi per quanto riguarda Milano, questi esercizi commerciali, in quanto cittadini per l'area, in quanto associazione cittadini per l'area. Quello che posso dire è che è una iniziativa condotta da società scientifiche come la Società Italiana per lo Studio dell'Aerosol, che ha promosso anche con partnership a livello europeo questo studio. Quindi noi sostanzialmente siamo partner di queste società scientifiche che stanno portando avanti questo studio. Ma magari... A Roma probabilmente i referenti sono le stesse società scientifiche che hanno condotto e promosso lo studio stesso. Sì, probabilmente cercando ISPEX EU si può trovare magari il riferimento locale. Sì, poi dopo. Sì, ora, se uno andasse ad Atene per caso in questo momento può partecipare come un ateniese, diciamo, con quella. Deve trovare il referente. Perché poi posta dei dati che sembrano provenire da Milano, invece non sono di Milano. Per quanto riguarda, diciamo, quelli milanesi, noi abbiamo stabilito. Siamo dati queste regole, vanno fatte rilevazioni nell'ambito di 20-30 chilometri dai confini del comune di Milano, quindi chiediamo a coloro i quali partecipassero al nostro esperimento di farlo in questi confini che ho indicato. Poi chiaramente chi vuole, tutti coloro i quali partecipano sono tenuti a rilasciare nome e cognome, quello è d'accordo. Chi volesse può anche indicare nome e cognome nel momento della rilevazione stessa. Questo è volontario, può anche non farlo. L'importante è che a un certo punto, cioè alla fine di queste due rilevazioni che costituiscono il momento del monitoraggio, venga premuto nel tasto share, che significa sostanzialmente invio i dati, cioè le fotografie della scansione, al database europeo che le rielaborerà e di cui terrà conto. Allora io tra poco ti chiedo poi dopo come funziona il finale, no? Quando il database sarà completato, che cosa succede. Certo. Però voi avete trovato una sponda, perché abbiamo qui un secondo ospite in studio con noi, avete trovato una sponda e un aiuto anche nel padiglione Austria, che parteciperà, diciamo, a queste rilevazioni. Tra l'altro più in campo aperto dell'Expo di Milano c'è poco, perché è tutto il cielo è libero ovviamente e loro sono un padiglione che è, diciamo, votato proprio all'aria. E con noi c'è Georg Kastlunger, detto bene? Esatto. No? Del padiglione Austria, che appunto ci dice perché avete deciso di condividere questa iniziativa e direi anche poi spiega per favore perché appunto l'aria è la base del vostro padiglione, insomma il tema su cui avete costruito tutto. Sì, perché abbiamo conosciuto ad un evento l'iniziativa Cittadini per l'Aria e subito abbiamo capito che è assolutamente in tema col concept del nostro padiglione, che è Breathe Austria, quindi respira Austria, e che parla del nostro padiglione come un impianto di centrale, una centrale di produzione di ossigeno, quindi un padiglione che grazie ad una vegetazione boschiva all'interno dello spazio espositivo produce ossigeno, quindi aria fresca e profumata di bosco, per 1800 visitatori all'ora. Quindi un padiglione che parla proprio dell'importanza dell'aria e dell'aria come cibo principale dell'uomo e appunto del fatto che si può sopravvivere senza cibo per 5 settimane, senza acqua per 5 giorni, ma senza aria neanche 5 minuti. E quindi assolutamente parliamo dell'importanza dell'aria per l'ambiente e quindi assolutamente in tema con ISPEX. E quindi insomma anche voi parteciperete, avete già preso il dispositivo, avete già iniziato, esatto. E quindi dal padiglione fate queste fotografie? Sì, all'interno del padiglione, che comunque è uno spazio aperto, quindi si vede il cielo, quindi è possibile anche dal punto di vista tecnologico, e abbiamo iniziato col monitoraggio proprio per contribuire alla stesura di questa mappa. Non c'è nessuna città austriaca, magari poi tornando indietro potrete diffondere, magari potrete portare a Vienna l'esperienza. Sì, però comunque intanto ci sembrava carino di partecipare non solo all'interno proprio di Expo come sito espositivo, ma anche proprio del nostro microclima all'interno del padiglione, per vedere se appunto questa cosa che noi stiamo cercando di riprodurre all'interno del nostro bosco, perché appunto è una vegetazione boschiva con 12.000... Perché è proprio un bosco, per chi non l'ha visto, va esatto, proprio intanto specificato. Invito, quante piante ci sono? Sono in totale 12.600 piante quindi diverse, una superficie di vegetazione boschiva di 560 metri quadri. Si fa proprio un percorso, un sentiero, come se fossimo in un bosco austriaco, ma anche delle Alpi italiane, insomma comunque l'idea è quella, e si respira veramente questo profumo di bosco, cioè la freschezza del bosco. Tra l'altro immagino che nei giorni del grande caldo abbiate fatto il pieno proprio per quello. Esatto, fino a 18.000 visitatori al giorno, grazie anche appunto che ci presentiamo un po' come oasi anticaldo, perché all'interno del nostro padiglione, grazie alla superficie foliare, possiamo creare un microclima. Quindi abbiamo una performance climatica che fa sì che all'interno ci sono dei 5 ai 7 gradi in meno misurati, e in più rispetto a fuori. Esatto, rispetto all'esterno del nostro padiglione. E in più, grazie a una tecnologia all'interno del padiglione, che sono 27 ventilatori e 56 spruzzini che gettano dell'acqua nebulizzata, possiamo creare questa performance sensazione climatica sentita sulla pelle del visitatore, di questa freschezza, che sono una temperatura di comfort addirittura dai 7 ai 10 gradi in meno. Quindi assolutamente l'idea è proprio come essere in montagna, dà proprio quell'impressione, esatto, lì di fare una passeggiata pur essendo in piena pianura padana in piena estate, quindi cambia completamente. E chiaramente questo trasmette bene il messaggio, l'aria che respiriamo, la qualità dell'aria, il senso che abbiamo, cioè viviamo appunto, senza aria non viviamo, ma se abbiamo un'aria di qualità viviamo ancora meglio, ecco, perché lì, esatto, ti dà proprio l'idea di respirare a pieni polmoni. Allora, i dati raccolti, per quanto tempo vengono raccolti? Dunque, prima della viabilità, diciamo per quanto tempo? Dunque, così fino al 15 di ottobre. Fino al 15 quindi di ottobre. Bisogna correre a prendere questo strumento, perché altrimenti... Sì, fino al 15 di ottobre, poi non è che sia indispensabile che tutti i giorni si facciano 4-5 rilevazioni quotidiane, così come diciamo. C'è chi può, c'è chi non può, naturalmente, viste le condizioni, non è facilissimo sempre avere queste possibilità, anche considerato che bisognerebbe avere proprio un giorno come oggi, cielo terso, bellissimo, pulito, perché è una delle, se il cielo è molto nuvoloso le rilevazioni non funzionano e quindi non andrebbero fatte nel cielo, con cieli molto nuvolosi o piovosi. Quindi fino al 15 di ottobre, in quel momento incominceranno le rielaborazioni a livello di database, e questo è il primo elemento a livello europeo, quindi avremo una mappatura di quello che a livello estremamente diffuso abbiamo potuto misurare come qualità dell'aria, no? E già questo è un elemento interessante, ma in più queste stesse rilevazioni verranno confrontate con le rilevazioni ottenute dai satelliti negli stesse ore e negli stessi giorni, per avere, diciamo, un riferimento scientifico, dal un basso, benchmark, dall'alto, esatto, un benchmark rispetto a questi indici di torbidità dell'aria. Che... Allora, Roberto, ti fermo un secondo, facciamo questa piccolissima pausa e poi continuiamo. L'altro pianeta, Expo 2015. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, in compagnia in questa seconda parte, anzi direi l'ultimo quarto d'ora della trasmissione, di Roberto Castelli Dezza di Cittadini per l'Aria e di Georg Kastlunger del Padiglione Austria. Di nuovo ben ritrovati. Grazie. Stiamo parlando di questo monitoraggio dell'aria che è appena partito e andrà avanti fino al 14 di ottobre, cui possono partecipare chi frequenta Milano e dintorni, in un'area limitata, ma insomma non, basta ma non vastissima. Possono partecipare anche i cittadini romani per quel che riguarda l'Italia, e poi una serie di altre città di Europa nelle quali appunto si raccoglieranno fotografie dell'aria, che poi verranno mandate tutte a un database, dicevi Roberto, nel quale poi si confronteranno con riprese satellitari fatte negli stessi giorni, in modo da ottenere che cosa? Ottenere una mappatura appunto a livello continentale della torbidità dell'aria. Torbidità dell'aria che è un indice della qualità dell'aria, quindi dell'inquinamento alla fine, dell'inquinamento dell'aria che noi respiriamo. Quindi questo non è solo, mi permetto di dire, un esperimento di scienza partecipata molto interessante, perché lo è in sé, ma è anche l'occasione per cui i cittadini possono attivarsi concretamente nella misurazione di qualcosa che li riguarda direttamente, e attraverso questo, attraverso i risultati di questo esperimento, intervenire nei confronti delle istituzioni pubbliche, degli amministratori, perché agiscano con interventi, leggi, normative, con iniziative per migliorare la qualità dell'aria nella quale viviamo. Noi come Cittadini per l'Aria, come associazione, riteniamo questo, chiaramente visto anche il nome della nostra associazione, però comunque un elemento essenziale della nostra vita, della nostra partecipazione, eccetera. Essenziale che sostanzialmente i cittadini si rendano conto che è necessario intervenire in maniera attiva perché i decisori politici applichino quelle scelte che permettono di migliorare l'attuale nostra condizione. Che prendano finalmente anche la questione, esatto, in mano, perché come abbiamo detto, le alterne vicende della direttiva aria, no? Esatto. Siamo al momento in una fase di... Purtroppo noi viviamo nella pianura padana, che è considerata una delle aree più inquinate d'Europa, insieme a poche altre dell'est Europa. Noi viviamo una condizione in cui di fatto l'inquinamento oggi e a maggior ragione in futuro, secondo le previsioni più diffuse, causerà un numero elevato di morti premature. Si stima addirittura che al 2020, a causa dell'inquinamento dell'aria nella pianura padana, si stimano 224 morti premature ogni 100.000 abitanti. Quindi noi stiamo parlando di un problema serio da risolvere nell'immediatezza, perché questo problema dell'inquinamento dell'aria nella quale viviamo è un problema che fa parte proprio dei diritti minimi del nostro vivere sociale. Per questo noi abbiamo sposato immediatamente questo progetto. Anche perché può essere un modo per appassionare il pubblico a questo tema. Penso proprio di sì. Se pensiamo alla grande mania che c'è, perché è una mania alla fine, quella del selfie, di avere questi bastoni, come si chiama il bastoncino, quello, no? Esatto, e per fare le fotografie, ecco, allora usiamolo anche per essere cittadini attivi, non esatto, solo per avere il ricordo delle vacanze o della visita o di qualcosa, usiamolo anche per fotografare la qualità dell'aria, perché poi alla fine quello è, insomma, la torbidità dell'aria che è un indice della sua qualità. Infatti. E quindi diciamo, questa è l'idea. Dicevamo prima che il Padiglione Austria ha sposato questa iniziativa, che quindi anche da qui, da questo sito dell'Expo verranno prese delle fotografie e lo faranno loro. Il tema dell'aria in Austria, quindi se penso indietro al tuo paese, Georg, è un tema che è già dibattuto, magari ci sono molte più discussioni sicuramente in altri paesi europei su questo tema, non so come sia l'Austria. Ma innanzitutto ovviamente l'Austria è famosa per l'eccellente qualità dell'aria, non solo nelle montagne, ma ovviamente esatto, anche a Vienna come capitale, e infatti noi vogliamo proprio trasmettere durante la visita del nostro padiglione questo messaggio chiave dell'importanza dell'aria pulita e con idee concrete. Ma voi che l'avete pulita, state attenti a non inquinarla, oppure perché l'avete pulita non ci pensate nemmeno? Ma allora, a parte che in Austria comunque ci sono degli esempi anche molto concreti di mobilità verde, infatti noi abbiamo fatto anche delle iniziative concrete per presentare questo concept. Uno era per esempio di portare qua un gruppo di giovani ragazzi austriaci che avevano la missione di raggiungere il sito espositivo direttamente dall'Austria senza inquinare. Quindi sono venuti qua in 4 giorni a piedi, in bici e in treno dall'Austria, proprio appunto per vedere che si può... Fammi dire che l'ultima parte l'hanno fatta in treno. Sì, ovviamente. Ecco, perché purtroppo la bici qua non è ancora tra i mezzi presenti preferiti, diciamo, purtroppo. Però poi anche un po' di sono strutture. Entrati sul sito espositivo in bici e quindi hanno avuto questo permesso straordinario per sì. l'occasione. E appunto noi durante la visita del padiglione vogliamo trasmettere questo messaggio chiave, però abbiamo anche delle iniziative concrete, appunto, come c'è un memory all'ingresso del padiglione e per ogni memory completato correttamente il Ministero dell'Ambiente austriaco pianta un albero in Austria. Ah, quindi c'è proprio anche un link diretto e pratico e manuale, insomma. Proprio per far vedere che basta poco per comunque cambiare la qualità dell'aria a livello concreto. Beh, questa è una bella idea, Cittadini Bellissimo. Per l'Aria potrebbe recuperarla magari per ogni scatto, no, però per ogni completa partecipazione al progetto magari si potrebbe insistere. Essere un'idea, è più che altro un problema di risorse, io credo, però è un'ottima idea. Però ecco, magari il Comune di Milano, sì. Io non dico in questa iniziativa perché poi queste cose vanno prese sempre un po' alla distanza, però magari il Comune coinvolto in qualche iniziativa potrebbe impegnarsi a piantumare una qualche area. È giusto e infatti noi... In cambio di qualcosa. No, naturalmente. Il Comune più volte nel passato ha promesso di piantare alberi. Mi ricordo il progetto legato al compianto Claudio Abbado, che aveva chiesto: io tornerò a dirigere la Sinfonica della Scala se e solo se voi pianterete 10.000 alberi a Milano. Non so perché, non mi ricordo, ma questo progetto non è andato avanti, non sono stati piantati 10.000 alberi a Milano. Claudio Abbado è tornato per una singola volta a dirigere l'Orchestra Sinfonica della Scala, però comunque sarebbe un ottimo strumento per incentivare il decisore pubblico, l'amministratore, a fare sì che venga estesa le aree verdi, vengano piantati più alberi e che ci sia sostanzialmente anche più vivibilità delle città da parte dei cittadini. Questo è l'elemento essenziale. Io credo che qualsiasi amministrazione pubblica oggi deve porsi questo come obiettivo fondamentale, cioè al di là di ogni altro. Questo della vivibilità all'interno di condizioni di aria, ma anche di ambiente più in generale parlando, favorevoli per i cittadini. Io ringrazio Roberto Castelli Dezza, Cittadini per l'Aria. Sul sito di Cittadini per l'Aria ci sono tutti gli store, tutte le informazioni, infatti. Tutto quanto per poter partecipare, perché siamo ancora in tempo. Ringrazio anche Georg Kastlunger, che è stato con noi del Padiglione Austria. Visitatelo, vale la pena. Vi prendete una boccata d'aria fresca, magari in una giornata calda. L'altro pianeta si conclude qui. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto a chi ci ha seguito fino a questo momento e l'appuntamento per la prossima settimana alla stessa ora. Grazie.